Ma è una fotografia con pochi grigi, molto nero e qualche bianco, e c'è un fallimento complessivo di leadership nell'affrontare e risolvere delle crisi gravissime, penso a quella della Siria, ancora più grave in questi ultimi giorni, allo Yemen. C'è stato questo nuovo ingresso nell'orrore per quanto riguarda la persecuzione dei Rohingya in Myanmar, tutte crisi che da un lato ci dicono quanto il mondo sia intriso di odio, di rancore, dall'altro ci raccontano che sempre più governi e quell'odio ci tengono, lo promuovono, perché probabilmente in tempi di crisi è più facile additare un nemico che convincere che le proprie politiche avranno qualche risultato positivo. Infatti mi ha colpito molto il fatto che sottolineate la demonizzazione di gruppi in base all'identità e anche una sorta di criminalizzazione della solidarietà che avviene. Sì, qui l'elemento che lega questi due aspetti è ovviamente l'immigrazione, che ormai lo straniero, il migrante di cui si percepisce la presenza solo all'arrivo e di cui non si conosce la storia alla partenza, è il nemico. Sempre più evidente l'associazione tra insicurezza e immigrazione, l'uso di numeri eccessivi, non reali, l'uso di un linguaggio discriminatorio, e purtroppo dal discorso di odio è facile passare al crimine di odio. Nel mondo sono in aumento e l'Italia non è fuori da tutto questo discorso. Una sensazione che si ha, appunto, leggendo anche il rapporto di Amnesty, e correggimi se sbaglio, è che anche l'Europa, che nei decenni scorsi si è sempre rappresentata come paladina dei diritti umani, stia scivolando verso un non rispetto sempre più strutturale. È così? Direi di sì. Ci sono delle situazioni specifiche, però di nuovo quello che tiene insieme questo passo indietro è l'approccio che l'Europa complessivamente ha al tema dell'immigrazione: politiche di chiusura, di respingimento, accordi con la Turchia da un lato, la Libia dall'altro, con l'obiettivo di non far partire, e le violazioni dei diritti umani sul posto che ciò provoca sono evidenti. Ci sono poi delle cose veramente aberranti e inspiegabili. Io non trovo spiegabile in alcun modo questa politica che va avanti da 2 anni di rimandare gli afghani a casa loro, perché migliaia di afghani sono stati mandati via dalla Francia, dalla Norvegia. La Norvegia ha una popolazione quanto quella di Roma e però si distingue per mandare via centinaia di afghani ogni anno, in un paese nel quale dal 16 al 17 ci sono stati 20.000 morti tra la popolazione civile. Mi ha colpito anche molto il discorso sul web. Prima parlavamo di hate speech, però anche le fake news giocano un ruolo importante e lo giocheranno anche nel futuro. Sì, non è una novità, ora le si chiama fake news, ma insomma l'informazione falsa, non veritiera, anche quando si parla di diritti umani c'è, perché si fa propaganda in guerra e non in guerra. Certo, l'uso che dello strumento della notizia fanno sempre più governi emerge in modo chiaro, e questo è un aspetto del web. Il secondo aspetto è che è diventato veramente il luogo dove regna l'odio, non contrastato, ed è paradossale che uno spazio nato per essere luogo di libertà è diventato luogo in cui, in nome della libertà di espressione, si fa un'operazione che è contraria alla libertà di espressione, cioè si promuove l'odio, la xenofobia, la misoginia, la persecuzione nei confronti delle persone LGBT, dei Rom, ed è una slavina questa, cioè ogni giorno vediamo dei segnali di peggioramento. Prima, in apertura, quando parlavamo delle tinte, insomma, di questo rapporto, dicevi che c'è anche qualche tinta bianca. Qual è? I tanti movimenti di massa che nel 17 hanno animato piazze in tanti luoghi del mondo, guidati dalle donne, con al centro la dignità e i diritti delle donne, il loro diritto a vivere libere dalla violenza, in particolare la violenza sessuale. E poi ci sono stati in vari paesi dei passi avanti importanti, o anche delle resistenze che hanno bloccato provvedimenti negativi per quanto riguarda i diritti umani. In diversi paesi si è raggiunto il matrimonio egualitario, è stata abolita qua e là la pena di morte. Nel nostro piccolo abbiamo in Italia una legge contro la tortura che non è ciò che volevamo, però è qualcosa, e quindi c'è questa mobilitazione che, devo dire, è un po' all'antica, cioè meno like e più mettere un po' i piedi per terra e marciare.